Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 3 maggio 2015. Orto in condotta. Nelle scuole italiane la didattica si fa tra patate e pomodori. L'iniziativa l'aveva presa qualche anno fa Slow Food, l'associazione per il cibo buono, pulito e giusto, che con le sue condotte si impegna da anni sul fronte dell'educazione alimentare. Oggi l'idea degli orti a scuola è diventata una vera e propria tendenza didattica, che funziona soprattutto perché piace a tutti, insegnanti ed allievi. In 3 anni il numero delle scuole che hanno adottato un orto e lo utilizzano per l'attività didattica è triplicato, mentre Slow Food ha rilanciato il progetto a livello internazionale in occasione dell'ultima edizione di Terra Madre. Fin qui la notizia del 3 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Il progetto Orto in condotta ha durata triennale, punta sui prodotti tipici e sull'autoconsumo, sul risparmio idrico e sulla continuità di impegno di ragazzi e insegnanti, con effetti positivi anche nei meccanismi di apprendimento, come spiega Valeria Cometti, responsabile settore educazione per Slow Food. Per noi il progetto Orto in condotta è il progetto che meglio riassume il nostro concetto di educazione alimentare del gusto, cioè il più attuale, perché attraverso l'orto, che diventa quindi uno strumento a scuola, io riesco a declinare il cibo e la qualità del cibo secondo il buono, pulito e giusto, e a farlo attraverso l'esperienza, che è il modo migliore perché le persone rimangano in testa le cose. Quali sono stati i risultati fino ad adesso dal punto di vista proprio dei comportamenti alimentari nelle scuole? Ma i risultati mi fa pensare a un dato scientifico, ecco, un monitoraggio scientifico non ce l'abbiamo, però abbiamo delle testimonianze e abbiamo alcune tesi di alcuni ragazzi che sono andati invece lì anche con una metodologia più scientifica a vedere la differenza di comportamenti, per esempio nei bambini a mensa, tra bambini che facevano un orto e bambini che non lo facevano. La differenza più lampante è che i bambini che fanno l'orto hanno un rapporto con la verdura che gli arriva molto più facile, sono più diretti e più disponibili ad assaggiarle e magari anche a criticarle se l'hanno già assaggiate invece fresche dell'orto, se quelle non arrivano direttamente dall'orto, e quindi hanno un comportamento che è quello che noi vorremmo che ognuno avesse, che è di curiosità e di disponibilità ad assaggiare per avere poi una dieta più varia, sana, e questa è la prima cosa. L'altra è rispetto agli insegnanti, che in molti casi gli insegnanti ritrovano motivazione perché gli hanno una finestra in cui possono metterci del loro, progettare, collegando le materie come geografia, storia, matematica, geometria, anche con attività pratiche in cui vedono che i bambini ci sono e riescono a recuperare anche bambini che hanno forme di intelligenza diverse. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.